La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Lei quando ha iniziato, cioè, il suo percorso sacerdotale, diciamo, aveva già in testa di lavorare alla periferia del mondo, di occuparsi? Sì, io ce l'avevo in testa certamente, perché era il modo per il quale ho deciso di fare il prete, quindi la periferia. Io sono partito dalla periferia di Milano, la Bovisa, ai tempi, che era proprio periferia, e ho sempre vissuto dentro le periferie, ma questo è un grande regalo, perché dalla periferia si vede la domanda di universalità, non si è coi poveri per escludere altri, si parte da lì perché si vuole una fraternità, un modo di cancellare l'odio e la rappresentazione separata. Quindi lei non ha mai smesso di amarlo, questo mondo di fatica? No, però anche... è anche perché è lui che ama me, cioè che mi fa crescere, cioè, sono debitore a questo mondo, non sono uno che aiuta per essere rafforzato, pieno di interrogativi, di inquietudini. Quando vedi delle donne che fanno fatica e che hanno subito violenza nel proprio corpo e chiedono solidarietà, è un interrogativo che arriva a noi. Non si aiuta, si condivide, scambiano i linguaggi. Per noi qui, anche nelle fasce più deboli, il tema delle donne, io dico sempre che partire dalle donne, dai bambini, significa poi portare una rivoluzione, portare dentro speranza. Io quando vedo le donne anche che erano nei campi sgomberati, che però adesso sono loro protagonisti nella nostra impresa di lavoro, la pulizia la gestiscono loro in termini di eccellenza. Quando vedo delle donne al parco Lambro che stanno inventando di fare il pane, sognano di fare una panetteria che sviluppa queste dimensioni, vuol dire avere, quando vedi i bimbi che vanno al conservatorio e che e da lì portano ad altri ragazzi anche normali questa voglia di studiare musica, di diventare eccellenza, viene fuori una speranza straordinaria che non deve essere solo testimoniale, fa intravedere che si può lavorare all'interno, e le donne insegnano molto, sono protagoniste. Quando diventano protagoniste si cambia, si è a metà strada o a tre quarti addirittura sulla strada dell'autonomia e della cittadinanza partecipata. La prima volta di Don Colmegna inizia dal basso. È lì, in quelle periferie problematiche e ricche allo stesso tempo, che resterà Don Colmegna, il prete di strada che il cardinal Martini amava tanto. Don Virginio Colmegna nasce a Saronno, in provincia di Varese, il 1 agosto del 45. Ha 24 anni Virginio quando diventa sacerdote. È il 69, l'Italia sta vivendo grandi rivoluzioni culturali. Don Colmegna inizia la sua di rivoluzione, che consiste nell'abbattere i pregiudizi attraverso ogni metodo, come nel caso qui raccontato. Dico sempre questo aneddoto, che una c'è addirittura all'ultimo piano del palazzo, quando è andata via è venuto a dirmi: Don Virginio, sa cosa è successo? La vicina di casa è venuta lì e mi ha detto: oh, meno male che ci siete voi, vi do la chiave perché vado in vacanza, mi curate la casa, meno male che ci siete voi perché ci sono in giro gli zingari. Ecco, nel senso che queste persone, per inserirsi nel normale contesto di normalità, devono evitare di affermare la propria identità. Lavorare nelle periferie è la missione di Don Colmegna. Lavorerà sempre con gli ultimi, fornirà loro gli strumenti per poter tornare ad essere parte della società. Chiederà alla società stessa, che esclude, di porsi delle domande e di smetterla di inseguire modelli fasulli che non portano da nessuna parte. Dopo ci si rende conto che sostanzialmente dovremmo ripensare al vivere sobrio. Però questo ha bisogno di un'etica della relazione, della fraternità, della convivialità, che deve impiantarsi dentro nel cuore di ciascuno, per evitare di pensare che noi siamo individui proprietari di noi stessi e che continuamente dobbiamo accumulare sia come individuo sia come popolo, per cercare continuamente di dissanguare l'altro per occupare. Questo non sta in piedi più, questo tipo di schema. Cioè, l'antropologia della felicità è quella che sa accomodarsi, sa mettere in archivio questa esperienza e dice proprio per essere felici. Quanto male ha fatto alcune volte nell'educazione cristiana, me lo lasciate dire, mettere il volontariato o la dedizione, la gratuità sotto il capitolo dei sacrifici. Invece che sotto il capitolo della... ci mancherebbe altro che non ci sia la disciplina dei sentimenti, ci mancherebbe altro. Invece che sotto il capitolo della felicità di vivere, del dare senso alla propria esistenza, del riscoprire continuamente questa passione di relazioni. Ecco, voi capite che questo cambia la prospettiva e dentro allora ci vogliono delle strategie straordinariamente capaci. Quella di pensare che i diritti universali si impiantano nella coscienza della gente e dei popoli come diritti sovraterritoriali. E questo è il paradosso. Per fortuna la nostra fede, se c'è una cosa che ha dentro, è che i confini sono confini che non devono esistere, dobbiamo rimetterli insieme, dobbiamo star lì a perforarli in un'umanità che passa, che attraversa. Nel 2011 Don Colmegna riceve la laurea honoris causa in pedagogia dall'Università Bicocca di Milano. Questo il suo discorso. Nella vita da prete si attraversano molti spazi, o almeno nella mia è stato così. Spazi pieni di gente, dalla quale si può ogni volta congedarsi frettolosamente, o gente con cui intrattenersi ed abitare, nella scoperta di una dinamica di ospitalità reciproca che genera il processo virtuoso della circolarità educativa. Chi intende educare, chi esprime un progetto educativo, si lascia o si deve lasciare lui per primo educare. E la docenza dei poveri è stata fondamentale per me. È a loro, storie e volti che ho voluto citare a lungo nel mio ultimo libro che è stato citato, che dedico questa lezione, ringraziando anche a nome loro chi mi ha conferito questa onorificenza e tutti voi qui presenti. È il frutto di un laboratorio continuo di pensiero che nasce dal suo stare sui margini. Vorrei giocare con l'idea della collocazione spaziale, visto che lo stare in mezzo evoca una posizione ben precisa, dalla quale fare e pensare la pedagogia con gli uomini vulnerabili, fragili, poveri del nostro tempo. Non siamo autoreferenziali e continuiamo ad imparare in una dinamica educativa che, mentre ci fa crescere, ci fa sentire vivi. Percorriamo il solco di alcuni che hanno già fatto con sapienza e pensato con lungimiranza. Si sta in mezzo, dunque, se si ha l'umiltà di stare dietro ai maestri, siano essi i poveri, i grandi leader della coesione sociale o i docenti accademici del presente e del passato. Se voglio accingermi a discutere con voi la pedagogia dello stare in mezzo, ho bisogno di dirvi che sono un allievo, che ho potuto pronunciarmi sulla marginalità sociale perché lì ho trovato maestri tutt'altro che marginali, anzi capaci di dire profonde verità sul complessivo della vita cittadina, sulla convivenza che appartiene a tutti, sulla vita dei cittadini che stanno al centro della metropoli e non solo nelle sue periferie. C'è qualcosa di importante che il Cardinal Martini, a cui consegno la mia riconoscenza affettuosa, mi ha insegnato a chiamare ed accogliere come la sapienza della carità. Non è soltanto una passione emotiva, ma un'esperienza piena che dà senso e orientamento al mio vivere e alla relazione con l'altro, con il diverso da me, con chi porta una domanda di giustizia fraterna, con chi è vittima in un mondo dove non è risparmiato il soffrire e il subire violenza, dove l'immensa maggioranza di uomini, donne e bambini non ha il necessario per vivere. Ma che sorpresa! Può nascere una rosa anche dal fango, nei deserti più assolati o negli eterni inverni. Ma che sorpresa una rosa, ma che sorpresa. Intercede Don Colmegna, lo fa più volte. Una tra tutte avviene l'anno scorso, quando una donna di 29 anni rom viene arrestata perché anni prima aveva fatto l'elemosina. Dovrà scontare 6 mesi di carcere. La donna però, nel frattempo, si è rifatta una vita, ha una casa, dei bambini, un lavoro. Il carcere sarebbe la fine. Don Colmegna lo sa bene, perché è lui che ha seguito questa svolta e allora non ci sta. E nell'indifferenza di tutti inizia a fare lo sciopero della fame perché quella donna venga scarcerata e possa stare coi suoi figli. Restami accanto, nel tempo non c'è più bella cosa che ci unisca. Nella fortuna o nelle tempeste del destino. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey. Questa è la prima volta di Don Virginio Colmegna, un prete che dal 1969 fino ad oggi non ha mai smesso di lavorare nelle periferie e di occuparsi degli ultimi. La sua prima volta, il momento in cui decide di diventare prete, è segnata proprio da questa necessità. Aiutare gli altri, dirà, è un modo per essere felici, ma non basta più. Per uscire dalla crisi si può essere solidali, ma bisogna soprattutto che l'agenda politica abbia al centro il tema della povertà. Affronta questo tipo di tema, che la povertà è una questione di cittadinanza, non è una questione di assistenzialismo, di misericordia per cui bisogna aiutare. Noi l'affrontiamo sul taglio di una politica di cittadinanza, in quanto questo qui bisogna sostenerli per aprire anche con loro una contrattazione di partecipazione, altrimenti la povertà mangia e vince la cultura dell'assistenzialismo e della cronicizzazione della povertà, con la rassegnazione, perché per esempio tra i giovani il dato più drammatico è che aumentano quelli che non cercano neanche più lavoro, cioè portano dentro di sé la struttura della rassegnazione dell'impotente. Questo è un sottofondo che poi può produrre evidentemente non solo conflittualità sociale, ma anche un investimento di situazioni che sono al limite della legalità, dell'illegalità e qualche volta di un investimento di criminalità. Insomma, questo è il dato fondamentale, che ha dentro una dimensione culturale. Culturale non vuol dire di studio astratto, vuol dire rendersi conto che quando si affronta la questione della povertà è la questione decisiva. Certo la questione del lavoro, ma la questione del lavoro si incrocia con questa capacità di rompere il circuito di poveri che devono chiedere, poveri che in quanto hanno un minimo di cittadinanza riconsegnato, in quanto appartenenti a questa umanità solidale, a questa Europa, poi possono da lì fare del riscatto e possono diventare protagonisti loro stessi di questa questione di lotta alla povertà come questione decisiva. Senta Don Colmegna, lei è proprio in prima linea, cioè su questo fronte, quindi lei veramente le cose le sta vedendo. Da quanti anni assiste a questo aumento, diciamo, di questa classe di poveri? Ma in un certo senso c'erano sempre anche prima, da 35 anni i miei impegni, però prima erano più segnati dalla sofferenza, salute mentale, dall'abbandono, erano anche un'impotenza, una debolezza della politica. Adesso invece diventa proprio un dato sempre più strutturale, la povertà prende il volto della normalità, del povero della porta accanto, soprattutto in una cultura dove è aumentato l'individualismo, l'indifferenza, Papa Francesco la chiama la globalizzazione dell'indifferenza, per cui l'altro è sempre un concorrente, non è una relazione con cui comunicare, quindi anche lo welfare, lo Stato sociale aggredito fortemente da questi tagli forti, però si ritrova dentro un'umanità che è molto più individualista, agganciata su se stesso, e quindi la tensione delle comunità, dei mondi vitali, che non è solo la famiglia, ma sono tutte le realtà dove si vive l'altro come un elemento importante. Quindi se non si affronta bene la lotta alla povertà, c'è una caduta culturale di modi di vivere di rassegnazione, di conflittualità, e quindi questa è l'agenda politica da mettere al primo posto, questo tema della lotta alla povertà, che non è il capitolo di chi fa volontariato, di chi è buono nel cuore, non è l'apologetica della bontà. Poi ci sono tutte queste dimensioni che sono cariche di spiritualità e che ciascuno porta dentro e lo immette come energia, come valore aggiunto. Ma di fatto qui è una questione politica decisiva, vedo in tutte le agende, dovrebbe essere questa la questione, che dopo si aggancia al lavoro, al problema della casa, che è diversa al nord che al sud, il problema dell'abitare, e poi ci sono le situazioni e i fenomeni migratori, perché siamo in un mondo dove dobbiamo renderci conto che la pressione migratoria non diminuirà ma aumenterà e richiamerà la solidarietà di tutti, cioè questo lo rivediamo ogni giorno, e quindi anche il cambio legislativo non è perché c'è l'ideologia del tutti dentro uno contro gli altri, è perché c'è questa visione che una politica di giustizia si radica a questo livello, e questo è fondamentale. Ci sono tantissimi però esempi, diciamo, in questo mare di storie al limite della disperazione, sta crescendo anche tutto un fronte di solidarietà dal basso. Io assisto, sì, proprio quotidianamente a scene di condivisione, di aiuto. È chiaro che questo non serve. Bello. Questo è il grande che sta succedendo, che però va valorizzato non come elemento soltanto testimoniale, che va raccolto e poi viene citato da tutti, ma come un laboratorio di nuova umanità condivisa e quindi di una nuova modalità di pensare anche alla politica partecipata, alla soggettività come presenza. La lotta alla povertà è un'immissione non di un aiuto assistenziale apologetico, ma è l'immissione di una nuova energia politica, di una nuova vitalità sociale. Io ci credo molto, sono qui, vedo giovani che vengono, quest'anno facevo ieri i dati, sono passati a incontrare, a stare qui più di 1500 giovani, sono venuti da Sarzana questa settimana, vengono anche da tutta Italia, dove l'incontro non è solo l'incontro per aiutare i poveri, è per capire, si è rovesciata un po' la prospettiva. Lotta alla povertà significa mettersi lì ad ascoltare, riaprire uno sguardo diverso sulle situazioni, aprire anche una contrattazione qualche volta. Io, lavorando per esempio sulle fasce più tremende, quelle che sono segnate da ostracismo culturale, di emarginazione, che sono anche i Rom, che abitano anche qui con noi, è certo che abbiamo un problema di regole, di patto sociale continuamente, ma l'unica dimensione è quella di riscoprire che dietro, se ci sono bambini, se ci sono situazioni che chiedono dignità di vita, noi partiamo da lì e allora si riapre un'energia nuova. La lotta alla povertà è un laboratorio di nuova politica. Lei come fa a tenere in piedi questa forza, questo entusiasmo? Cioè, ha un pensiero lucido e contemporaneo? La sua riserva etica è, per me, la dimensione spirituale molto profonda, che viene immessa dentro in una dimensione anche laica, con credenti, non credenti. È certo che l'energia che ci sta dando Papa Francesco con questa intuizione vale per tutti, vale per questa umanità che deve recuperare dei punti di riferimento. Dopodiché vedo che la lotta alla povertà anche ci donano tantissimo, perché quelli che portano la loro esperienza da paesi anche lontani, sono fuggiti da situazioni drammatiche, hanno rifiutato l'imboccare le armi e fare servizio militare, hanno fatto dei viaggi tremendi a tutti i livelli, portano evidentemente una domanda di un aiuto, di una visione a noi spesso imborghesiti, una capacità anche nuova, e quindi la bellezza o la grandezza della lotta alla povertà non è che ci si esalta dalla povertà. La povertà è una sfida che mette in moto il coraggio anche culturale, di senso del vivere rispetto agli altri, ed è quel tema grosso, il nostro slogan legato a Papa Francesco è regaliamoci speranza. Abbiamo vissuto un tempo anche molto difficile, in Casa Carità lo stiamo vivendo, pensi che gli operatori, che sono tutti giovani professionalmente capaci insieme a tanti volontari, hanno i contratti di solidarietà, perché abbiamo, evidentemente viviamo una crisi che è data dall'accoglienza anche di quelli che vengono, che bussano, che non hanno una retta, sono col permesso, senza permesso di soggiorno, chiedono dei diritti, evidentemente noi standoci dentro però dobbiamo cavar fuori energie. Dico che gli operatori che ho qui, donne e uomini, sono di una straordinaria dedizione e portano dentro l'elemento della professionalità e della cura. Spesso non basta la pacca sulle spalle, anzi un certo tipo di assistenzialismo produce qualche volta una non capacità di far rileggere questo. Noi sogniamo, questo è il sogno di Martini, che Milano osservi, parta da Casa Carità con uno sguardo nuovo, che non è moltiplicare case a carità e dire attenzione, c'è questo modo di vivere che va interrotto, l'indifferenza, si deve partire da qui, si deve tagliare da un'altra parte, si deve entrare nel mercato finanziario, nell'economia sociale come domanda di lavoro e altro. È una grande impresa sociale, qualche volta ci vedono buoni testimoni. Noi siamo anche produttori certamente di una voglia di impresa sociale, di ragionare senza perdere il senso, il significato del perché si fanno queste cose. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Negli anni Ottanta, Don Colmegna promuove diverse cooperative e comunità di accoglienza, principalmente nel campo della sofferenza psichica e dei minori. Sarà poi nel 93 che il Cardinal Martini lo metterà alla direzione della Caritas Ambrosiana. Da lì Don Colmegna darà vita all'Agenzia Solidarietà per il Lavoro, impegnata nel reinserimento lavorativo dei detenuti e poi alla Casa della Carità. Per la Casa della Carità, Don Colmegna abbandonerà tutti gli incarichi e tornerà finalmente tra i suoi amati ultimi. È tutto, la puntata è riascoltabile in podcast, potete venire a visitare il blog della prima volta, lo trovate nella pagina internet di Radio 24, il mio indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Grazie ancora per l'ascolto, ci risentiamo domenica prossima alle 13.30, un saluto da Cristina Carpinelli. More than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.